Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse. Spengo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano mi vieni a cercare. I tuoi piedi, che potessi essere meglio di quello che vedi, avessi qualcosa da regalarti, se non ti avessi usciti fuori a comprare. Stella di mare, tra le lenzuola, la nostra barca, non naviga, vola, vola, vola. Yeah. Grazie tanto. Ciao. Thank you very much.